La borsa della spesa. Che sentite in sottofondo è la musica dello spot di Coltiva, il cibo, la vita, il pianeta. La campagna promossa da Oxfam, che intende rendere più equo il sistema alimentare mondiale, un sistema in cui 1 miliardo di persone ancora oggi, pensate, va a letto ogni sera senza cena. Come aggiustare questo sistema diventando tutti consumatori consapevoli, cioè del potere che possiamo esercitare quando facciamo la spesa, perché ogni persona, ogni famiglia può fare la differenza. Si tratta di un percorso verso un futuro alimentare sostenibile a partire da 5 facili passi. Eccoli. Ridurre gli sprechi. Circa un terzo del cibo prodotto finisce nella spazzatura. Programmare cosa mangiare in anticipo e utilizzare gli avanzi può ridurre gli sprechi e, conseguentemente, le emissioni di gas serra. Sostenere i piccoli produttori. Acquistare i prodotti del commercio equo e solidale significa premiare pratiche agricole sostenibili e garantirsi cibo in futuro. Comprare cibo di stagione. Scoprendo i prodotti di stagione nel nostro territorio, mangeremo primizie senza consumare troppa energia. Cucina intelligente. Se cucinassimo con meno acqua, con pentole a fondo sottile, usando coperchi e riducendo il calore non appena l'acqua comincia a bollire, risparmieremo energia, acqua e denaro. Meno carne. Se mangiassimo un po' meno carne e un po' meno latticini, ridurremmo drasticamente l'impatto dei nostri consumi sull'ambiente. Lo sapete che ogni anno tra Brasile, Filippine, Gran Bretagna, India, Spagna e Stati Uniti, che sono i paesi presi in esame nel rapporto Oxfam, 5,3 miliardi di mele, per prendere in esame solo uno dei frutti più diffusi, vengono buttate. Messe in fila farebbero il giro della Terra 9 volte. Questi 5,3 miliardi di mele producono da sole una quantità di gas serra pari a quella di 10 milioni di barili di petrolio bruciati. Abbiamo parlato della campagna con Elisa Bacciotti e Francesco Petrelli di Oxfam Italia. Ecco che cosa ci hanno detto. Sedendoci meglio alla nostra tavola possiamo mettere a tavola tutto il mondo. Il consumo consapevole, il consumo più responsabile è associato a preoccupazioni, diciamo, si fa perché è più sano, perché è più buono per noi. La nostra sfida è far capire che è più buono anche per tutti noi e per tutto il pianeta. Il tema della fame, è bene chiarirlo, non è dovuto alla mancanza di cibo. Nel mondo si produce il cibo sufficiente potenzialmente per sanare 7 miliardi di abitanti. Il problema è che il sistema alimentare è pieno di storture, di iniquità, di ingiustizia e bisogna aggiustarlo.